Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente faremo anche il punto su alcuni dei provvedimenti annunciati nel fine settimana dal governo, in particolar modo quello che riguarda il fisco. Poi vi sono anche altri elementi, chiaramente sulle risorse disponibili, da un lato i famosi 5 miliardi, ma non solo. Anche misure molto più piccole, come sulla nautica, su internet, in alcuni casi misure che hanno un impatto economico apparentemente minore, quelle sulla giustizia, ma in realtà sappiamo che il tema della giustizia civile è uno dei temi che allontanano da sempre gli investitori stranieri in questo paese, assieme alla burocrazia e alla corruzione. Ma il fisco oggi fa notizia anche perché il Sole 24 Ore del lunedì ha la mappa, non dell'evasione fiscale, sarebbe scorretto dirlo, ma del rischio di evasione, cioè va a misurare il tasso di infedeltà fiscale, i 20 milioni addirittura di contribuenti che potrebbero essere sconosciuti al fisco, ma soprattutto si va da un record a Crotone, se non ricordo male, poi ne parleremo, con un tasso di sospettati vicino al 44%, a Trieste dove si arriva solo all'8%. Sono 8 milioni, scusatemi, di contribuenti potenziali a livello nazionale, su cui appunto cade l'ombra del sospetto, e appunto sono stati rimessi al centro dei riflettori dal richiamo della Corte dei Conti, che ha invocato, ricorderete, uno strumento, un ripensamento anche per gli strumenti sulla lotta all'evasione fiscale. Di questo parleremo, anche perché poi invece nel provvedimento del decreto fare del governo sostanzialmente sulla riscossione si va verso un ammorbidimento, scadenze più lunghe con tassi più bassi e interessi contenuti, niente oneri sulla cartella da coprire solo i costi, il no al sequestro della prima casa e anche più difficile il sequestro dei macchinari, e poi appunto le rate e la possibilità di allungare il mancato pagamento delle rate. Fino adesso era 2 mancati pagamenti, poi si perdeva la possibilità della rateazione, adesso viene allungata da questo punto di vista il numero, se non sono 2 volte consecutive si può arrivare fino a 7 mancati pagamenti prima di vedersi levato il beneficio della rateizzazione dei pagamenti al fisco. Questo è il primo tema, poi ci occuperemo del G8 invece, incontri bilaterali, non solo gli incontri del G8, Obama-Letta, ma anche questa mattina Obama-Putin, vari temi, chiaramente molti di politica estera, ma non solo, e fanno discutere le dichiarazioni, adesso le racconteremo, di poco fa, di Silvio Berlusconi sul 3%, diciamola subito così non... sbrighiamo subito come pratica. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Pontida ha detto: il governo vada a Bruxelles, vada all'Unione Europea e dica il limite del 3% annuo del deficit e del fiscal compact ve lo potete dimenticare. Il fiscal compact è quell'accordo che ha firmato, lo ricordo, lo stesso governo Berlusconi, tramite il ministro Tremonti, in cui ci siamo impegnati a ridurre e a portare entro 20 anni il nostro debito al 60% del PIL. Siccome è oltre il 120%, vuol dire ridurre il debito di 3 punti percentuali di PIL all'anno per 20 anni, che vuol dire, tradotto in soldi, sostanzialmente 50 miliardi all'anno in meno di debito. Ora voi capite tutti che siccome è una manovra finanziaria, sono 2 manovre finanziarie, è un obiettivo difficilmente raggiungibile. Noi l'abbiamo firmato perché era il vincolo che la Germania chiedeva per dare il suo via libera alle misure di salvataggio e protezione per i paesi dell'area euro. Oggi Berlusconi dice: andiamo a Bruxelles, diciamo che il limite del 3% e del fiscal compact ve lo potete dimenticare, e ha aggiunto: ci volete mandare fuori dalla moneta unica, fatelo, ci volete mandare fuori dall'Unione Europea, vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all'anno all'Unione Europea e ce ne ha ridate indietro solo 10. Replica di Palazzo Chigi, ha detto la posizione italiana resta la stessa, nonostante le parole di Berlusconi. E il commissario agli affari economici Olli Rehn, parlando al Parlamento europeo, ha detto l'Italia tenga il deficit sotto il 3% e faccia le riforme che le sono richieste. Su questo la mia chiosa, insomma, forse l'opportunità, il timing, il tempismo non è stato dei migliori, nel senso che queste cose prima di annunciarle bisogna farle, nel senso andare a Bruxelles e chiedere una diversa Europa, altrimenti si rischia di spaventare, diciamo, gli altri paesi europei, soprattutto uno, la Germania, che è sotto elezioni e quindi è molto molto nervosa nelle dichiarazioni dei suoi candidati e dei suoi schieramenti. Detto questo, io penso che si possa parlare di tutto e non mi interessa se lo dice Berlusconi, se lo dice Letta, se lo dice Grillo. Il tema di un'Europa che questo mantra e questo tabù del 3% e sacrifica tutto pur di essere sotto il 3%, secondo me è un tema e bisogna anche iniziare a ragionare in maniera molto laica e dire: è corretto andare avanti così? Cioè sacrificare gli occupati giovanili, i consumi, la crescita solo perché bisogna stare sotto il 3% del PIL? Questo mi chiedo. E è così come è anche corretto dire se dirsi se il fiscal compact è o no raggiungibile con un PIL che continua a calare e con un'economia che è stagnante barra in recessione. Io avrei meno remore nei confronti dell'Europa, cioè se anche l'Italia ogni tanto facesse sentire la sua voce non sarebbe male. La linea del governo Monti da questo punto di vista è stata nella seconda parte del governo disastrosa, perché ha semplicemente detto di sì a ogni richiesta europea. Allora, siccome siamo il terzo paese dell'area euro, forse si può anche discutere, per cui sul tempismo forse non sono così d'accordo, ma sui contenuti secondo me Berlusconi ha ragione a porre il tema, punto, senza nessuna grande, diciamo così, scalpore da parte dei ben pensanti. Non sono le tavole della legge quelle di Bruxelles. Io guardo la situazione e vedo che questo tipo di Unione Europea e di euro ci ha portato a essere l'unica area geografica a livello mondiale che si è beccata la seconda recessione e non si capisce come ne uscirà. Se vogliamo dire che lo 0,4% di PIL di crescita nel 2014, ammesso e non concesso che arrivi, sia la soluzione, auguri a tutti quanti. Parleremo anche di Saipem, visto che il titolo è crollato in borsa oggi, ha perso praticamente un terzo del suo valore, meno 27%, trascinando con sé anche la controllante Eni, che perde il 2,40%, e parleremo anche del salone di Le Bourget. Sono due i saloni più importanti per l'aerospazio difesa al mondo, un anno Le Bourget, l'anno dopo Farnborough, quest'anno tocca ai francesi. Intervista del nostro inviato Enrico Pagliarini al numero uno di Finmeccanica, e mi riferisco chiaramente a Pansa. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Vedo già che c'è chi mi definisce l'ammiro, lei è un genio, è un discotecaro prestato all'economia e sembra pure capirne. Sempre meglio avere una qualifica o un economista prestato alle discoteche, decida lei come vuole. Andiamo avanti con le borse, mezzo punto percentuale di rialzo oggi per Milano, nonostante Saipem e nonostante l'Eni, chiaramente meglio fanno le altre borse europee, però più 1,70% Parigi, più 1,30% Francoforte, più 0,70 Londra, più 1,20 l'America. L'Italia quindi guadagna quasi un punto percentuale in meno rispetto alla media europea, appunto per la vicenda Saipem e Eni, ma anche la popolare di Milano cala del 2,36% e la popolare Emilia Romagna dell'1,20. Bene invece Mediolanum, più 4,16, Luxottica più 3,80, A2A più 3,40, come Enel ed Enel Green Power. Ma positiva è anche Telecom Italia, più 3%, Exor più 2,60 come Steam Microelectronics e il Banco Popolare, Mediaset più 2,40 come Mediobanca e Finmeccanica e Ubibanca, Snam più 2,30 come Generali, il 2,20 lo guadagna Autogrill, il 2,1 Fondiaria e il 2% Ferragamo e Tods. Per quello che riguarda le altre borse, Tokyo questa mattina ha recuperato gli degli scivoloni dei giorni scorsi, più 2,70%, lo spread italiano sul Bund è a sostanzialmente 270 punti e oggi, anzi ieri notte, il premier Enrico Letta, a margine del concerto a Cesenatico dei Nomadi, anche lui sarà un musicista prestato alla politica, come io sono un discotecaro prestato all'economia, non lo so, o viceversa. Ha detto, spero che ci metteremo meno di 50 anni per uscire dalla crisi. Spero di meno. Possiamo dare un po' di speranza agli italiani, possiamo dire quanto tempo ci vorrà anche a seguito di quello che avete fatto ieri. Bisogna che ognuno ci metta il suo impegno. Io ce la sto mettendo tutta, se ognuno ce la mette il suo impegno forse ci riusciamo. Ancora, per quello che riguarda il nostro export, è migliorata la bilancia commerciale d'aprile, il saldo commerciale è positivo per quasi 2 miliardi, in forte miglioramento rispetto all'aprile del 2012. E va bene il nostro export sia fuori dall'Europa che in Europa, 400 milioni in più in Europa e 1,5 miliardi in più di attivo, chiaramente. Fuori dall'Europa le esportazioni sono aumentate del 4,4% su base annua, mentre le importazioni sono calate del 2,6%. Tra le voci sull'export come aree geografiche particolarmente forte, il Belgio più 30% del nostro export, i paesi del Mercosur più 22% e dell'Oceania e Pacifico più 20%. Quanto ai settori farmaceutici, chimico-medicinali e botanici più 30%, articoli in pelle escluso l'abbigliamento più 13%, e poi bene di nuovo i prodotti alimentari, le bevande e il tabacco più 12%. Dove non andiamo bene sono i paesi OPEC, stranamente questo aprile meno 34%, Stati Uniti meno 16%, Svizzera meno 8%, mentre calano anche tutti i prodotti petroliferi raffinati quanto export. Quanto a import. E come dicevo appunto, vola l'export alimentare più 12,6%. Tra l'altro, se si va a vedere solo l'esportazione dei prodotti agricoli, siamo a un più 15,5%. Una buona notizia sul nostro export arriva dall'India, perché l'India ha proposto, per ora, solo proposto, di abbassare del 40% i dazi doganali sull'importazione di vino, questo per bloccare uno stallo che si è creato con l'Unione Europea. Pensate che attualmente New Delhi applica una tassa di circa il 150% su vini e alcolici stranieri. Bruxelles ha chiesto una riduzione al 30% di questa tassa. Allora, adesso andiamo avanti. C'è chi sta dicendo: ah, adesso lei è anti-europeista, però lei prima difendeva Monti, difendeva anche Tremonti. Allora, vediamo se si riesce a fare un ragionamento non tra tifo calcistico, tra Guelfi e Ghibellini. L'Europa aveva ragione a chiedere all'Italia misure per tenere sotto controllo il deficit. C'era un attacco speculativo al debito italiano, un attacco non generato dall'Italia ma generato dalla gestione inconcludente, caotica, casinista del salvataggio della Grecia, e quindi da metà del 2010 in poi, per cui la finanza internazionale si è chiesta: questa Europa è in grado di tenere tutti i paesi assieme? Se non riesce a tenere la Grecia, figuriamoci il Portogallo, figuriamoci la Spagna e figuriamoci l'Italia. E da lì c'era bisogno di dare risposte. E questa è stata la prima parte del governo Monti, e noi abbiamo sempre detto: attenzione, lo spread non è uno scherzo. Abbiamo anche criticato l'allora premier Berlusconi quando sottovalutava o ridicolizzava lo spread, l'ha fatto anche recentemente. Detto ciò, se uno ragiona con la sua testa e non per schemi o ideologie, deve anche riconoscere che le richieste arrivate dall'Europa e in particolar modo dalla Germania sono state solo di tagli, tasse, controllo dei conti pubblici. Non c'è stato ancora nulla sulla crescita, su politiche anticicliche, e cioè investimenti in infrastrutture, di fiscalizzazione dei contributi per chi ha assunto, agevolazioni alle imprese, zero di zero. Uno. Due, non abbiamo ascoltato nulla dal punto di vista europeo su distinzione tra le spese, cioè, ripeto, non è possibile che uno Stato che non si distingua quando uno Stato spreca e quando uno Stato investe sul futuro, deficit buono e deficit cattivo, io continuo a insistere su questo. Tre, abbiamo anche visto la Germania mettere sotto accusa con la Corte Costituzionale Mario Draghi perché si era permesso di creare il fondo salva Stati, ancora mai utilizzato, l'OMT, nel caso uno Stato fosse sotto attacco speculativo e lo spread superasse livelli sostenibili e non riuscisse più a ripagare i suoi bot. Allora, di fronte a questa rigidità, uno può dire è giusto fare i compiti a casa, mettere sotto controllo il deficit, non sprecare, fare tante cose che ancora non abbiamo fatto sulla burocrazia e su quant'altro, però è anche giusto ricordarsi che non è che se fai il 3,3% di deficit finisce il tuo mondo, mentre se hai la disoccupazione a record da 40 anni forse hai problemi di carattere sociale fra un po' se vai avanti così. Se un giovane in Spagna su due non lavora, se in Italia un giovane praticamente o 4 su 10 non lavorano, forse hai un problema più grosso che un deficit tra il 2,9 o il 3,2, anche perché negli Stati Uniti e in Giappone non si pone questo problema, ok? Allora, di fronte alla rigidità della Germania e di alcuni paesi del nord, ci siamo permessi di dire un'Europa fatta solo di ragionieri non ha senso. I ragionieri vanno bene, ma non esistono solo i ragionieri nella vita. Poi certo che è giusto distinguere spese, perché no, lasciamo stare in un drag Q che oggi non ho tempo per metterla, però vi leggo solo due cose, e cioè la prima, quanto hanno speso le pubbliche amministrazioni nel 2011 in consulenze. Hanno speso 1.300.000.000 di euro le 14.850 pubbliche amministrazioni di questo paese, hanno dato complessivamente 270.000 incarichi. A me sembra un po' tanto, visto anche il numero di addetti alla pubblica amministrazione, spendere 1.300.000.000 in consulenze, ma la cosa che mi fa impazzire è che è il 4% in più rispetto al 2010, il che vuol dire che alcune parti del paese stanno tirando la cinghia, altre parti del paese ce l'hanno ancora sbottonata, perché non è possibile che la pubblica amministrazione continui a aumentare, ma non per gli stipendi del funzionario, ma per quello che fanno dirigenti e quant'altro, continua a aumentare le consulenze esterne di un 4% in un paese che era già in crisi e in ginocchio nel 2011. Non è possibile. Tutte le aziende private stanno tagliando, riducendo i costi, la pubblica amministrazione vive su Marte e prima o poi qualcuno lo dovrà affrontare questo problema. Ecco perché dico, distinguiamo tra spese cattive come questa, perché non c'è dubbio che spendere 4% in più di consulenze per la pubblica amministrazione sia solo una spesa cattiva, non me ne frega nulla di cosa è stato fatto, non è pensabile che continuiamo a aumentare di anno in anno le spese per consulenze esterne, dove gira di tutto, consulenze buone, favori agli amici, favori a se stesso, di tutto. O almeno ditemi che la pubblica amministrazione non è in grado di fare il suo lavoro, quindi chiudiamo alcuni dipartimenti e diamo tutti quanti in consulenze, in outsourcing come provocazione. Ok, detto questo, per quello che riguarda poi altri sprechi li raccontiamo tutti i giorni. Oggi scopriamo che tre consiglieri regionali del Piemonte sono stati pizzicati nel corso del supplemento di indagini della Procura della Guardia di Finanza sull'inchiesta sulle spese dei consiglieri regionali in Piemonte. Sono stati pizzicati a farsi rimborsare non solo pranzi e cene che magari erano atti privati e non di lavoro, ma addirittura pranzi e cene neanche pagati, no? Cioè questi qua si facevano dare delle fatture che risulterebbero false almeno una decina di occasioni, e fatture pagate da altre persone che poi venivano girate ai consiglieri comunali. Pensate un po' che bella. Il ristorante di riferimento dei consiglieri del PDL era il vintage, il lussuoso e pluricensito locale di Piazza Solferino, dove il conto non è mai inferiore ai 50 euro. Insomma, l'accusa è di aver utilizzato fatture di altre persone per farsele rimborsare. Questo è quello che va combattuto internamente, ma allo stesso tempo si può chiedere all'Europa di essere più elastica e più ragionevole sul futuro e sugli investimenti per il futuro. Un'ultima notizia riguarda invece gli ecoreati e le ecomafie. Questa la voglio dare perché è un tema delicatissimo dove la mafia si infila ormai da anni. Anche quest'anno è stato diffuso il rapporto Ecomafia 2013 di Legambiente. Le ecomafie hanno un fatturato di 16 miliardi e 700 milioni di euro, 34.000 reati accertati, 28.000 persone denunciate, 8.300 sequestri. Aumentano i clan coinvolti, passano a 300 e quadruplicano i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, da 6 a 25. Salgono gli incendi boschivi, cresce l'incidenza dell'abusivo edilizio e soprattutto la piaga della corruzione, con il raddoppio delle denunce e degli arresti. Ed è purtroppo uno dei pochi settori dell'economia che non conosce recessione, quello dell'ecomafia, come ha confermato il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Le ecomafie non devono rispettare regole e hanno soprattutto una disponibilità economica che non passa attraverso le strettoie delle banche, e quindi sono in grado di investire in questa fase molto più dell'economia sana. Ed il problema vero è che in questa fase di crisi economica l'economia cattiva caccia l'economia buona. Però è anche vero il contrario, per esempio nel mondo dell'edilizia: se ci fosse un piano nazionale di sviluppo dell'edilizia buona, della rigenerazione urbana, si entrerebbe in un mondo in cui le ecomafie ancora non riescono a stare, che è quello della qualità professionale del lavoro. Fino a che si costruiscono case abusive che non rispettano le norme antisismiche, che magari vengono costruite anche in aree a rischio idrogeologico, la competizione è a vantaggio tutta dell'economia illegale. Quando si comincia a pensare a ristrutturazioni, a quartieri a emissioni zero, a rigenerazione urbana, a riqualificazione energetica, dove servono professionalità e nuove tecnologie, quella è la battaglia che oggi si può vincere. Lei ha detto che vi aspettate dal governo qualcosa nel decreto del fare appena approvato dal Consiglio dei Ministri, invece non c'è nulla per quanto riguarda le misure contro i reati ambientali. Sarebbe stato un bellissimo segnale se tra le 80 misure del governo Letta ci fosse stata una presa di posizione contro l'economia illegale, perché questo è il terreno su cui oggi bisogna combattere. Decreto del fare, novità per imprese, famiglie e fisco, tre provvedimenti per il fisco amico per chi è in difficoltà, di questo parleremo fra pochi minuti. Stop alla tassa sulle piccole barche, oddio piccole, anche quelle fino ai 16 metri. Indennizzo della pubblica amministrazione per i ritardi nei procedimenti, 450 milioni di oneri in meno per le imprese. E anche norme per ridurre le bollette elettriche di 550 milioni di euro, 5 miliardi di euro per sostenere le imprese che vogliono investire in macchinari, 3 miliardi di euro per opere pubbliche con la creazione supposta di 30.000 posti di lavoro e impignorabilità della prima casa nel caso sia l'unico bene. Intanto continua la polemica sull'IVA. Il ministro dello sviluppo economico Zanonato oggi ha precisato di auspicare che si possa bloccare l'aumento dell'IVA pur nella consapevolezza delle difficoltà di trovare coperture adeguate in tempi stretti. E poi il viceministro allo sviluppo economico Carlo Calenda ha detto: tutto il governo è per abbassare la pressione fiscale, soprattutto quando colpisce le imprese e i consumatori. Di nuovo Silvio Berlusconi ha detto che è inaccettabile che non si trovino gli 8 miliardi per IMU e per evitare l'aumento dell'IVA. Il ministro Saccomanni, ministro dell'economia, ha detto che ci vuole tempo per una misura ragionata. Il risanamento comunque resta tra le priorità del governo. E poi il ministro Saccomanni ha fatto una precisazione sulla lotta all'evasione. Ha detto: la lotta all'evasione fiscale non può essere assolutamente allentata, ma essa può e deve tener conto delle esigenze dei contribuenti in difficoltà. Sentiamo questo passaggio. In una fase in cui perdura l'esigenza di risanamento delle finanze pubbliche, la lotta all'evasione fiscale non può essere assolutamente allentata, ma essa può e deve tenere conto delle esigenze dei contribuenti in difficoltà, ed è in tal senso che vanno interpretate le misure adottate con il decreto del fare approvato sabato scorso, in linea con le raccomandazioni espresse all'unanimità dalla Commissione Finanze della Camera. Le misure mirano ad attenuare l'incisività per imprese di individui delle procedure di riscossione coattiva, maggiore flessibilità nelle rateazioni, maggiore cautela nell'azione esecutiva nei casi più meritevoli di attenzione. Ma siamo pienamente consapevoli che l'impegno al contrasto all'evasione ha come presidio irrinunciabile forme efficaci di riscossione. E poi i risultati conseguiti dalla lotta all'evasione. Sempre il ministro Saccomanni e sempre nel suo intervento alla scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza. I rilevanti risultati conseguiti negli ultimi anni tramite l'attività di accertamento si iscrivono nello sforzo di risanamento del bilancio dello Stato, che resta tra le priorità dell'azione di governo. Ed è grazie ai progressi conseguiti con il risanamento che è stato possibile adottare alcune misure di stimolo all'economia, quali la proroga e il potenziamento degli incentivi fiscali per l'edilizia e per il risparmio energetico e le ulteriori misure definite dal Consiglio dei Ministri sabato scorso con il decreto del fare. E di fisco parleremo dopo il meteo e la pubblicità. A chi dice lei è ripetitivo sull'Europa, sì, anche sugli sprechi della pubblica amministrazione, anche sulla lotta all'evasione siamo ripetitivi. Purtroppo ci sono temi che restano lì, fermi, e finché non vedremo qualcosa continueremo a pensare e a dire che è sbagliato. Non è che cambiamo idea o stiamo zitti perché tanto le cose non cambiano. Meteo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non vi tedierò adesso di nuovo sui temi dell'Europa, però vedo molto scandalo tra gli ascoltatori perché mi sono permesso di dare ragione a Berlusconi. Ho detto che il tempismo forse non era giusto, ma che non c'è nessun tabù, non è una tavola della legge scritta da Mosè, sto 3%, andiamo a ragionare di tutto. La situazione è nuova per tutti, la più grande crisi dal 29, un'economia di guerra, e allora alla guerra come alla guerra, no? Senza stare lì a fare ragionierini 3,1, 2,9, 3,2, intanto il paese e l'area euro si sfascia. Comunque, magari è un'idea solo mia. A me sembra che l'Europa guardi il dito e non la luna, però. Intanto il ministro Saccomanni ha detto con un fisco equo tornerà la fiducia. Auguri. E poi ha anche detto che dobbiamo conciliare il contenimento della spesa pubblica essenziale per ridurre la pressione fiscale. Io ancora però misure su come si contiene la spesa pubblica non ne ho viste. Ha aggiunto Saccomanni che il pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione alle imprese è una manovra anticiclica. E però, novità sul fisco ci sono in questo decreto del fare. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il collega del Sole 24 Ore, perché se ne è occupato oggi il Sole di fisco anche per un altro aspetto. Cristiano Dell'Oste, buonasera. Buonasera. Dunque, mi sembra che le misure più rilevanti riguardino la Equitalia e la riscossione, cioè non è che si abbassa la pressione, ma la riscossione forse diventa un po' più, posso permettermi, ragionevole? Sì, esatto, questo è un po' il senso. Si tratta di trovare un equilibrio che è difficile, la riscossione, quindi l'esigenza da parte dello Stato di incassare le somme che vanta nei confronti dei contribuenti e come dire, una sorta di considerazione, di attenzione alla difficoltà economica di chi non paga, non perché non lo vuole fare, non perché ha nascosto i profitti magari all'estero, ma perché in questo momento è alle prese con una situazione di oggettiva difficoltà dovuta alla crisi, e questo lo si vede soprattutto da due misure. Una è quella che, diciamo, lo accennavi già in precedenza, impedisce di pignorare l'abitazione principale, la prima casa dei debitori fiscali, diciamo, quale che sia l'ammontare del debito, quindi la prima casa diventa in qualche modo inviolabile per il fisco. L'altra misura è quella che prevede invece la pignorabilità solo nel massimo di un quinto dei macchinari d'impresa per le imprese ad alta intensità di capitale. Questa è una misura che sostanzialmente salvaguarda la continuità aziendale anche nel caso in cui ci siano dei rilevanti debiti fiscali, perché è ovvio, se l'impresa non è più in condizioni di lavorare non potrà rimborsare nessun tipo di debito, non solo quelli nei confronti del fisco. E questo per quello che riguarda la parte, diciamo, di maggiore non equità, ma tolleranza, perché insomma prima ascoltavamo il ministro Saccomanni dire attenzione, il fisco, la riscossione va avanti, la lotta all'evasione va avanti, ci mancherebbe, però teniamo anche presente che nel frattempo le condizioni economiche di una parte produttiva di questo paese, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, sono molto cambiate e ci può essere difficoltà a pagare, no? Quindi prendiamo in considerazione anche questo. Voi però avete fatto una mappa oggi che devo dire potrebbe essere accusata così di razzismo, non lo so, ma insomma esistono due Italie, adesso è inutile girarci attorno, non sopporto l'ipocrisia, esistono due Italie dal punto di vista anche della fedeltà fiscale, è inutile fare tanti giri di parole. Al sud c'è un'infedeltà fiscale molto molto più alta rispetto al nord, le proporzioni. Sono elaborati dal Centro Studi Sintesi, diciamo subito, sono elaborati in modo tale da confrontare il numero di dichiarazioni dei redditi che sono presentate e che risultano ufficialmente al Dipartimento delle Finanze con il numero di soggetti che per l'Istat e per, diciamo, le altre fonti ufficiali risultano effettivamente impiegati. Quindi non sono stati considerati disoccupati, non sono stati considerati gli studenti o comunque i soggetti dichiaratamente inattivi, così come i pensionati, e allora in qualche modo si capisce bene, se si sommano, se si confrontano le due grandezze, si dovrebbe arrivare più o meno allo stesso risultato. Invece si scopre che le dichiarazioni dei redditi sono sempre leggermente inferiori o ampiamente inferiori di numero rispetto a coloro che risultano lavorare. Leggermente mica tanto, ci sono 38.700.000 potenziali contribuenti, gli effettivi sono 30.700.000, mancano all'appello 8 milioni di contribuenti, cioè... No, il leggermente era riferito ad alcune aree, no, dico, facciamo la popolazione dell'Austria come contribuenti ai momenti. Mediamente il dato è impressionante, mediamente. Poi però si vede che ad esempio a Trieste lo scartamento è dell'8%, un dato che potremmo quasi definire normale, nel senso che poi la ricerca, come tutti i confronti statistici, non va presa come oro colato, quindi se lo consideriamo come un indicatore, diciamo che questo 8% potrebbe dipendere da un lato proprio da fenomeni di raccolta dei dati, da qualche disallineamento tra le banche dati e da una esistenza che comunque c'è di lavoro nero. Però diciamo siamo quindi Trieste è l'8%, che è quasi fisiologico, se ho ben capito. Dov'è che è patologico da morire? Beh, sicuramente abbiamo il dato di Crotone che è il 43,5%, Agrigento il 41%, Cosenza il 40,8%, ovviamente stiamo parlando di dati che a questo punto non possono più rientrare nella fisiologia. Possiamo dare per buono che ci sia un qualche scartamento di allineamento tra le banche dati, ma non giustifica. Allora adesso faccio la classifica nella maniera più neutra possibile. Friuli Venezia Giulia è al primo posto come fedeltà. Il 13%, nel senso che solo il 13% è la differenza tra i contribuenti potenziali e quelli effettivi, no? Poi il Veneto, il Trentino Alto Adige, scusatemi, meglio ancora del Friuli, 10%. Bene anche la Lombardia, 14%, il 15% il Veneto, 16% il Piemonte, Liguria 15%, Emilia Romagna 14%, Toscana 16%, sale un po' in Umbria al 18%, nelle Marche pure al 18%, sale un altro po' in Lazio, si va al 20% di infedeltà fiscale, in Abruzzo si arriva al 25%, poi ecco il primo grosso scalino con il Molise 30% e la Puglia 29% e con la Sardegna 26%, e poi mi dispiace dirlo, ma le tre regioni dove l'infedeltà fiscale è a livello patologico e a livello assolutamente raro nel resto d'Europa, il 34% in Sicilia, il 34% in Campania, il 39% quasi in Calabria e il 31% in Basilicata. Sarà forse vero quello che scrive un ascoltatore, ecco perché nonostante i numeri che abbiamo statistici sul nostro Mezzogiorno che descrive una situazione disastrosa da rivolta sociale, in realtà poi la rivolta sociale non c'è, perché forse ci sono molti lavoratori in nero che non riusciamo a fotografare. Grazie a Cristiano Dall'Oste. Adesso il traffico e poi parliamo di Saipem, crollata in borsa oggi, quasi il 30% di calo, e del salone di Le Bourget, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Allora, un crollo vero e proprio quello di Saipem in borsa oggi. Già lo scorso gennaio fu annunciato un profit warning, quindi un avviso, un allarme di utili inferiori alle attese. Oggi però pesano il deterioramento della posizione commerciale in Algeria, le criticità, cito testualmente, in Messico e Canada, taglio delle stime con una perdita compresa tra i 300 e i 350 milioni. La Consob ha comunque avviato da mesi un'indagine su Saipem, ma adesso ne parleremo. Vi do i numeri del titolo che fanno impressione: ha perso il 30% quasi oggi in borsa, cioè in un giorno ha ridotto di un terzo il suo valore, il che vuol dire che ha bruciato qualcosa come 2 miliardi e 600 milioni di capitalizzazioni in una giornata, è passato di mano il 6% del capitale. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Panico? Beh, catastrofe, perché qualche analista dice un profit warning durante un anno ci può stare, ma due cominciano ad essere un po' eccessivi, perché non dimentichiamo che il primo allarme fu il 29 gennaio di quest'anno. Il titolo piombò da 31 euro a 20, perse il 30% in quell'occasione, ha perso il 27 oggi, quindi in realtà il titolo è passato dai 38 euro di settembre dell'anno scorso a 14 euro e mezzo. Cosa vuol dire? Che Saipem è tornata indietro a livello borsistico di 5 anni, cioè è tornata ai livelli del 2008, ed era un titolo che correva in borsa, cioè Saipem era considerato il maratoneta di borsa, il titolo per i cassettisti, per i risparmiatori, perché dava tanto dividendo, perché cresceva. Poi un settore anticiclico come l'energia, esatto, e quindi la fregatura è doppia, nel senso che probabilmente sono incappati in questa disavventura soprattutto piccoli investitori, perché il titolo è posseduto col 43% del capitale da Eni e c'erano investitori stranieri. Teniamo conto che la Consob ha aperto un'inchiesta perché nel corso del primo profit warning si è scoperto che il giorno prima Merrill Lynch, non si è ancora capito nulla. Che continua a chiedere un ascoltatore, chi ha venduto il giorno prima? Non si sa perché la procura ha tempi lenti, ha iscritto qualche indagato, ma ovviamente questo non vuol dire nulla. Oggi non si sa ancora chi e perché, l'operatore fu Merrill Lynch, ma si mosse per conto di fondi. Probabilmente erano tutti fondi che stavano sotto il 2% del capitale, sopra c'erano solo due fondi, era l'americano BlackRock e Fidelity. Sono spariti dai libri contabili, nel senso che oramai gli azionisti sono quasi tutti sotto il 2%, quindi non sono rintracciabili, e quindi sono spariti quegli azionisti americani, fondi americani che avevano quote consistenti. Probabilmente questi hanno venduto, questa volta non si è vista una vendita precedente, perché i volumi sono rimasti fermi. È stato un vero e proprio shock. Tutti gli analisti oggi commentano che questo è uno shock, nel senso che il titolo stava fermo, non si muoveva, venerdì è arrivato l'annuncio a borsa chiusa e oggi c'è stato il patatrac. Allora, nel primo caso però vi fu lo scandalo Sonatrach anche, cioè le tangenti pagate al colosso algerino in cui fu coinvolto anche direttamente il numero uno allora di Saipem, e poi tutto un giro, non si capisce se di sovrafatturazione o no. Comunque, lì c'era un motivo giudiziario. Io vorrei capire, dopo il GR, scusatemi, qual è il motivo in questo caso? Cioè, se c'è un motivo industriale o di nuovo è un motivo a cavallo con quello giudiziario. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Di 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo con Fabio Pavesi l'analisi del crollo pesantissimo di oggi in borsa di Saipem, società del gruppo Eni, ha perso quasi il 30%, bruciati 2 miliardi e 400 milioni di euro di capitalizzazione, il 6% del capitale è passato di mano, e ha trascinato con sé anche Eni, che ha perso il 2,14%. Saipem, che fa impiantistica, ricordiamolo, per l'estrazione, quindi è una delle società più operative del gruppo Eni, già coinvolta nello scandalo che è costato la testa al suo vertice per le tangenti, per l'inchiesta sulle tangenti con Sonatrach, quindi il colosso del gas algerino. Dicevamo con Fabio Pavesi, però, se a suo tempo il 29 gennaio, se non ricordo male, quando vi fu il primo profit warning, quindi il primo allarme di utili inferiore alle attese, si poteva capire. Ma adesso che cosa è successo? Perché non mi sembra che c'entri l'elemento giudiziario. E se mi rispondi anche una domanda che pongono molti ascoltatori, la Consob che ha atteso 3 ore e mezza, cioè mezzogiorno e mezza, prima di bloccare le vendite allo scoperto, cioè quando tu vendi un titolo senza averlo, scommettendo su cali ulteriori del titolo, lo vendi senza averlo perché poi lo compri quando è più basso e guadagni sulla differenza. Andiamo con ordine. Prima domanda, sì, è vero, a gennaio fu il caso algerino con un presunto giro di tangenti e quindi una corruttela. Adesso il comunicato di venerdì, accanto al caso algerino, si è messo ad assommare altre criticità. Allora, problemi in Messico, problemi in Canada. In Messico e Canada perderebbero 260 milioni di euro e hanno allontanato il responsabile di quella zona territoriale. Poi dicono che hanno problematiche anche nell'esplorazione, quindi le piattaforme offshore. Peccato che il 21 maggio, quindi solo un mese fa, la società esce con un comunicato stampa in cui parla di un'accelerazione delle commesse. Allora, se tu mandi un comunicato il 21 maggio in cui dici che le commesse stanno accelerando e quindi poni fiducia, poi non puoi un mese dopo, ma neanche, dirmi in un lungo comunicato che hai scoperto il 24 aprile che anche in Messico e in Canada hai problemi. Lì non si capisce, sono problemi analoghi a quello algerino, cioè giro di tangenti. Però viene questa impressione perché gli analisti dicono che Saipem non perde sui ricavi, perché prevedono che i ricavi rimarranno stabili, perde sulla redditività, cioè Saipem andrà in rosso, e lo dice la società, per 350 milioni, dopo che nel 2012 ha fatto utili per 900, cioè come un cambio di pelle drastico. Quindi vuol dire che probabilmente sulla redditività c'erano dei problemi, o quei contratti pagavano, ma questa è un'ipotesi ovviamente, delle tangenti assai esose, quindi poi pulite le tangenti scopri la redditività è molto più bassa di quello che è scritto nei bilanci, oppure appunto è successo qualcos'altro. Però questa cosa farà molto male a Saipem. Un analista parla di dead money, cioè oramai il denaro è morto su Saipem, cioè nessun investitore si metterà più a mettere soldi su Saipem in questo clima di così grave incertezza in cui anche lo stesso management sorprende così il mercato. Domanda Consob, c'è una regola tecnica, la Consob interviene quando il ribasso supera il 10%, è vero però che ha cominciato a scendere fin dalle 9 del mattino il titolo, cioè il titolo è andato giù a precipizio, e quindi questo ritardo Consob, se così è, ovviamente è grave, nel senso che tu dovresti intervenire fin da subito. La regola tecnica dice che quando sfori il 10% di ribasso si è sospeso automaticamente. Non so come mai Consob ha aspettato così tanto, se è così la cosa è alquanto grave, perché ha permesso ai più abili di sganciarsi prima del crollo rovinoso e di guadagnare qualcuno, sì, fino a mezzogiorno e mezza. Sapete, insomma, i tempi della borsa e della finanza si contano in secondi, sì, minuti, non in ore, perché sono operazioni fatte a nanosecondo. Comunque Saipem è un brutto caso, proprio brutto, perché la società era buona, la società correva da anni, era il luogo dove i cassettisti mettevano tranquillamente i loro soldi, e vederla rovinare così è una crisi di fiducia pesantissima. Sì, cioè, vediamo anche cosa dirà poi la capogruppo, perché mi aspetto che prima o poi su questo Eni intervenga. Eni dovrebbe dire qualcosa di definitivo su Saipem a questo punto. Sì, anche perché il titolo ha dimezzato il suo valore praticamente nell'arco di sei, sì, mesi, di sei mesi, meno di 50%. Peccato, perché noi conosciamo il gruppo e l'azienda Saipem, sappiamo che è un'azienda fatta di professionisti, ottimo valore, grande valore aggiunto, grande capacità di vincere le commesse a livello internazionale, quindi è un gioiello, non un gioiellino, è un gioiello. Però poi bisogna capire le responsabilità dei manager e perché, appunto, come tu ricordavi, la redditività è così, crolla a precipizio nonostante i ricavi più o meno tengano, che sì, vuol dire, questo insomma, il mistero. Che forse era un po' pompata, un po' è un eufemismo. Grazie a Fabio Pavesi. E noi andiamo invece con la borsa. No, niente campanella, dai, perché siamo un po' in ritardo. Ma Andrea Fontana, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Saipem era il caso di borsa, chiaramente ne abbiamo parlato a lungo. Meglio invece altri titoli, per fortuna, perché alla fine ha chiuso con un rialzo modesto, Piazza Affari più 0,26%, mentre nel resto d'Europa abbiamo avuto Parigi con un più 1,50%, Francoforte più 1%, e Londra più 0,35%. È già un miracolo con quello che è successo su Saipem che non abbia chiuso in negativo. Finmeccanica da un lato, oggi l'abbiamo vista in evidenza, più 2,44%, bene anche Luxottica più 3,36%, Enel Green Power più 3,40%, Mediolanum più 3,70%, A2A più 3,30%, Enel più 2,80%, quindi bene le utilities e anche Finmeccanica. Sì, Finmeccanica oggi ha, diciamo così, festeggiato l'apertura del Salone Internazionale dell'Aeronautica a Parigi, ha peraltro annunciato anche nuovi ordini per un valore complessivo di 240 milioni, mentre la controllata Selex ha firmato un contratto da 40 milioni con l'aviazione civile del Kuwait. Naturalmente questo è un appuntamento da cui gli operatori si attendono appunto indicazioni come quelle sui contratti o sull'andamento del business importante. Quindi è chiaro che il titolo va in vetrina, esattamente come succede al settore a Parigi. Un'ottima attenzione, come tu sottolineavi, sulle utilities in Italia in particolare, ma anche nel resto d'Europa, ma il settore migliore è stato quello delle telecomunicazioni, ne ha beneficiato Telecom Italia più 2,7%, settore delle telecomunicazioni che ha beneficiato di una euforia parziale, diciamo così, per le indiscrezioni relative a un'offerta dell'americana TNT su Telefonica, circostanza che tuttavia è stata smentita, in quanto il governo spagnolo non ha intenzione, diciamo così, di lasciare andare un asset di tale pregio come la compagnia telefonica, ma che certamente ha dato lustro al settore che è stato il migliore in tutta Europa. Ancora tra i titoli oggi, dunque, è andata bene anche Mediobanca, se ho ben visto, poi nel finale ha fatto più 2,12%. Venerdì arriverà il piano industriale, giusto? Sì, esattamente, quindi c'è stata un'attenzione soprattutto fino a metà pomeriggio, poi il titolo ha comunque guadagnato bene, ma altri, diciamo, hanno prevalso nella giornata di Piazza Affari. Chiaramente presentazione del piano industriale giovedì in CDA, venerdì che sarà presentato, è uscita qualche indiscrezione, una maggiore concentrazione sulla banca corporate, una riduzione probabilmente della partecipazione in generale, l'uscita da qualche patto di sindacato importante, e poi c'è la questione Telecom Italia e Telco, naturalmente, visto che Mediobanca è azionista di Telco, la holding di riferimento di Telecom Italia. Ancora due titoli per chiudere. Dicevamo il peggiore in assoluto, Saipem meno 29%, però va male anche Saras oggi, a seguito della conclusione anche dell'OPA parziale promossa dai russi, Rosneft perde il 6,14%, mentre benissimo va nel primo giorno di aumento di capitale il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, più 31,5% sulle ordinarie e più 70% sulle risparmio. Sì, per quanto riguarda Saras, rapidamente, conclusa l'OPA Rosneft, si ritorna un po' sui fondamentali chiaramente anche l'annunciata riduzione del governo nel provvedimento del governo annunciato nel weekend sulle tariffe CIP 6, cioè quelle relative alle rinnovabili e assimilate, avrà secondo gli analisti un impatto su Saras, e diciamo in generale la riduzione della PIL speculativa fa perdere il titolo meno 6%. Per quanto riguarda RCS, grossa volatilità nel primo giorno di aumento di capitale, e gli investitori hanno scelto i titoli e non i diritti, che invece hanno perso abbondantemente in borsa, mentre il titolo ha guadagnato il 30%. E questo per quello che riguarda i migliori e peggiori. Segnalo anche Seat, pagina gialla, più 5,56, Stefanel più 4,70, Rete Elite più 8%, tra i migliori chiaramente, tra i peggiori, oltre a Saras e Saipem, ma anche Fintel meno 13%, Compagnia della Ruota meno 6,30% e poi Premuda meno 4,24%. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Colle Sole 24 Ore. L'approfondimento con il Salone dell'Aerospazio di Le Bourget lo faremo domani. Abbiamo già avvisato il nostro Enrico Pagliarini, un'intervista anche all'amministratore delegato del gruppo Finmeccanica. Invece, dopo il traffico, ultimo tema di questa puntata, e mi riferisco al vertice dei G8, in cui si è discusso chiaramente anche di politica estera, Siria e Turchia, ma non solo. Ma si è discusso anche di economia e di lavoro, soprattutto visto che dopo l'incontro tra Barack Obama e Enrico Letta, Obama ha detto che intende portare la questione della lotta alla disoccupazione, in particolare di quella giovanile, sul tavolo del G8 con un suo intervento su questo tema. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. In Irlanda del Nord è iniziato oggi il summit del G8 presieduto dal Regno Unito. I dossier sul tavolo li immaginate: la Siria, la ripresa dell'economia e il lavoro, la lotta all'evasione ed elusione fiscale. La prima sessione è iniziata da poco, ma ci sono stati gli incontri bilaterali prima, tra il Presidente del Consiglio Enrico Letta, per esempio, con il suo primo faccia a faccia con Barack Obama, poi col presidente russo Vladimir Putin, il collega canadese Stephen Harper e il giapponese Shinzo Abe. L'agenda posta da David Cameron, premier britannico, le 3T, Trade, Tax and Transparency, per rilanciare la lotta all'evasione e fare un passo avanti nella lotta e nella battaglia contro i paradisi fiscali. Il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha detto che bisogna mobilitare ogni mezzo contro la disoccupazione, ma chiedo a Mario Platero, che è l'inviato del Sole 24 Ore, sta seguendo il G8. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. Chiedo, eccoci. Al di là, diciamo, del colore, arriverà qualcosa da questo G8? No, perché la lotta all'evasione, i paradisi fiscali, siamo tutti d'accordo, ma quando sento Van Rompuy dire mobilitiamo ogni mezzo contro la disoccupazione, ma ancora non abbiamo capito quali sono i mezzi, quali siano i mezzi, qualche perplessità resta. Mario. Sì, beh, dunque Sebastiano, intanto aggiungerei alle 3T altre due iniziali, una G o C per growth o crescita, che è uno degli elementi dominanti. Tu hai fatto riferimento all'occupazione, che fa parte della missione crescita, crescita, crescita. Barack Obama ha portato questo messaggio. Qua l'altro, sicurezza e per sicurezza e per Siria, di cui si sta parlando molto ovviamente in questo vertice e di cui si è parlato nell'incontro bilaterale, il primo tra Barack Obama e Vladimir Putin. Non abbiamo ancora dettagli su questo incontro, ci stiamo per recare col gruppo della Casa Bianca alla postazione del vertice. Pensa all'organizzazione alquanto complessa, devo dirti, perché noi siamo in un posto col White House Press che si chiama Sligo, ma gli eventi capitano a Enniskillen, che è a un'ora e mezzo da qua, quindi siamo davanti a un autobus per partire, come se un vertice fosse a Milano, ma il centro stampa poi è a Torino, quindi non molto semplice dal punto di vista organizzativo. Però ti dicevo, l'argomento centrale crescita, anche con un occhio a quello che sta succedendo a Washington, perché oggi abbiamo avuto dei dati molto interessanti, la borsa si è ripresa, conferma che il settore manifatturiero sta andando avanti in America, conferma che l'immobiliare è fuori dalle secche, la borsa si è ripresa, c'è stato un aumento di 160 punti dell'indice Dow Jones a Wall Street, e soprattutto un occhio a Washington, dove domani Ben Bernanke comincia il primo giorno delle riunioni del Comitato Monetario, del Federal Open Market Committee, in cui cercherà di chiarire qual è il posizionamento della Fed vis-à-vis l'exit strategy. Quindi c'è una situazione complessa, una situazione che ha una sponda molto su Washington e su quello che succederà domani e dopo, ma soprattutto una sponda per Barack Obama nei confronti degli europei, per dire: beh, il nostro modello ha funzionato, fate qualcosa. Come tu dici, tutti sono d'accordo, però tra il dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare. Un'azione importante dovrebbe venire proprio dalla Banca Centrale Europea, un confronto importante sarà quello fra Barack Obama e la Merkel, che avverrà mercoledì a Berlino. Ecco, tu già ricordavi, tutti d'accordo su crescita e quant'altro, ma poi le misure. Secondo te c'è da attendersi nell'intervento di Obama anche un appello, mettiamo così, perché poi la diplomazia conosce le sue regole, un appello all'Europa che esca in maniera un po' più veloce da queste secche, da questo pantano, visto che l'America in realtà sembra aver preso un'altra strada? Sì, io credo che ci sarà, anche perché, sempre come dici tu stesso, nei limiti del garbo e della diplomazia, ma un messaggio molto, molto fermo, anche perché l'America, che ha deciso di partire prima con l'aiuto della ripresa economica, a questo punto ha un doppio freno. Da una parte c'è il freno in arrivo dalla exit strategy della Federal Reserve, che probabilmente comincerà a partire dall'autunno, ma dall'altro, come abbiamo detto più volte, ci sono i tagli automatici, quindi l'America sta facendo austerità soltanto ora, quando le cose si sono rimesse in piedi, e quindi non può sopportare l'America un ruolo di traino nel momento in cui sta cominciando a rimettere ordine. Bisogna che l'Europa, che ha rimesso faticosamente ordine negli ultimi due anni, a questo punto cominci ad aprire le finestre, a prendere boccate di ossigeno per andare avanti, anche per i giovani che restano disoccupati. Ecco, sui temi di carattere a cavallo tra politica ed economia riguardano sicuramente la Siria, lì è politica estera pura, ma secondo te vi sarà anche un accenno alla Turchia, visto che Erdogan ha detto oggi, insomma, di non riconoscere, ha detto ieri in realtà, di non riconoscere il ruolo dell'Unione Europea, della Commissione Europea, sono molto sprezzante su questo. La Turchia ha un ruolo fondamentale non solo di carattere politico, visto che è il trade d'union tra Europa e Medio Oriente, ma anche dal punto di vista economico, è uno dei paesi che cresce di più in tutto il continente e in tutta l'area. Sì, la Turchia sta andando molto bene, e la Turchia ovviamente prende le distanze dall'Europa, e aggiungo giustamente, perché l'Europa poi ha respinto la Turchia e la richiesta della Turchia di rafforzare quelli che erano i legami con l'Europa, e dunque nel momento in cui viene respinta prende le distanze dall'Europa, non dobbiamo stupirci. Non dimentichiamo che la Turchia fa parte del G20 e quindi nel contesto di un gruppo multilaterale allargato dovrà tener conto di quelle che sono le conclusioni, i consensi, le mediazioni, i compromessi che si raggiungono fra tutti, inclusi i messaggi in arrivo dall'Europa. Quando dovremmo attenderci un comunicato più o meno congiunto sui temi dell'economia soprattutto? Ma il comunicato ci sarà domani, ci sarà nel pomeriggio di domani. E naturalmente c'è un contesto multilaterale, perché c'è stato anche l'incontro non secondario, anzi piuttosto importante, fra Barack Obama, Van Rompuy, Barroso e il primo ministro britannico Cameron sul negoziato per creare l'area di libero scambio nel mercato transatlantico. Dal punto di vista del periodo medio-lungo, è un obiettivo fondamentale per la crescita, ci vorrà tempo, ma diciamo che alcuni ostacoli sembra che siano stati superati per cominciare a negoziare, ma stiamo parlando di cominciare a negoziare. In una battuta, perché stiamo chiudendo, sul fronte della lotta ai paradisi fiscali, tema che sentiamo riproporsi ogni G8, ho visto oggi qualche dichiarazione molto sostenuta su questo, vogliamo arrivare un passo in avanti, ma lì? Ma sì, certamente tutti lo dicono, la Gran Bretagna stessa ha voluto dare il buon esempio, è riuscito Cameron a convincere i territori oltremare come le Virgin Islands e altri territori, è riuscito a convincerli a rinunciare ad alcune delle prerogative che gli danno poi il titolo di paradiso fiscale. Il fatto è però che ci sono inevitabilmente delle condizioni fiscali diverse, queste non credo che cambieranno mai e credo che siano implicite addirittura in quella che è una dinamica dell'economia, perché quando gli Stati Uniti hanno degli stati che danno un trattamento fiscale più vantaggioso degli altri, si inseriscono in un contesto competitivo per attirare business, quindi le regole eccessive alla fine rischiano di danneggiare. Farei una differenza tra quelle che possono essere delle regole vantaggiose che tengono conto del mercato e quelle che sono invece delle finte delle finte concessioni per eludere il fisco. Per eludere il fisco. Grazie. Su quelle si sta combattendo. Grazie Mario Pratera in collegamento con noi dal vertice del G8 in Irlanda, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un auguro di buona serata da Sebastiano Barisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.